Salve a tutti e bentornati sull'Arcadia grazie a Radio Big World. Siamo qui stasera per parlare di negazione, di chi nega, di chi pensa di avere tutte le risposte, di non potersi sbagliare, dell'ego della persona, perché non c'è cosa peggiore, penso, che di una persona è... crede di non potersi sbagliare, pensa di avere tutte le risposte, pensa di sapere tutto. Insomma, è stato Socrate a dire: siamo intelligenti quando ammettiamo di non sapere niente, perché quando ci viene detto prova a guardare questa cosa qui sotto un certo punto di vista, cosa ti dicono? Ti dicono: no, io non ci casco in queste cavolate, io non lo so già com'è il mondo in cui vivo, non ho bisogno di te che tu mi riempi il capo di tutte queste fandonie. Ma non sono fandonie, perché e qui c'è la differenza tra chi è maturo e chi ha voglia di scavare, chi ha voglia di capire cosa c'è sotto, dove uno vive, perché non è bello vivere in una menzogna. Non è bello quando ti rendi conto che non è la realtà quella in cui tu sei sempre stato. Il mondo come è costruito oggi non è come dovrebbe essere, non rappresenta la realtà, ma viviamo come in una realtà parallela dove pensiamo di che funzioni tutto in un altro modo, quando invece la realtà è diversa. Ha importanza quando una persona ti dice una cosa come la terra tonda o la terra piatta. Non mi puoi venire a dire: no, non mi interessa, ma che me ne frega, non mi cambia niente. Ora di queste cose ne abbiamo già parlato, ma non mi puoi parlare così. Come fai a dire non mi interessa, non mi interessa? Ma sui serio, cioè, ci sono dei fatti. Dei fatti, ignorare dei fatti che non puoi cambiare, perché ci sono dei fatti che non possono essere cambiati, sono quello e quello sono. Uno ci può vedere che vuole, ma se una cosa è in quel modo e non può essere cambiata, è sempre stata in quel modo, perché la devi ignorare? Ignorare dei fatti, dei principi naturali, come può essere l'acqua che non curva, perché non curva? Perché trova sempre il suo livello, ovunque la metti, l'acqua trova sempre il suo livello, è sempre piatta, sempre piatta. Che la metti in un bicchiere, in una piscina, da qualsiasi tipo di contenitore, diventa l'acqua, sopra, in superficie, è sempre, sempre, sempre piatta. Ora, se il nostro pianeta è fatto dal 71% di acqua, è circondato dal 71% di acqua, e l'acqua sappiamo che non può rimanere attaccata a una palla, e l'unica spiegazione che mi viene data a questa cosa dell'acqua è gravità, ma la parola gravità non spiega tutto, non spiega il perché il sole si muove in base alla prospettiva, non spiega il perché l'acqua rimane piatta. Insomma, che sia un obloide sferoide, che abbia la forma di una pera o di un diamante, l'acqua rimane piatta in superficie. Quindi quanti corsi d'acqua ci sono, quanti laghi, mari ci sono, insomma c'è l'oceano. Come facciamo a dire no, l'acqua curva? L'acqua non può curvare. E queste sono le cose che a volte mi fanno un po' perdere la speranza nell'umanità. Perché quando uno nega l'ego delle persone mi fa paura, mi spaventa. Perché siamo talmente tanto convinti di sapere tutto, di essere intelligenti, di conoscere già tutte le risposte, non abbiamo bisogno di un di un pazzo che ci fa confondere. Ci va bene la realtà così com'è e non vogliamo qualcuno che ci butti fuori da questa realtà, da queste comodità a cui siamo abituati. Ci hanno dato un sogno, viviamo in questo sogno, siamo contenti di stare in questo sogno, anche se ci lamentiamo tutti i giorni di questo sogno. Non vogliamo veramente tutto questo, vogliamo veramente tutto questo? Sono più importanti i pianeti rispetto alle persone? Siamo arrivati a dire che alcune persone sono inutili, non servono a niente? Le offese che mi sono arrivate anche dagli amici, da persone che conosco, quante offese, quante prese in giro, per cosa? Perché la vedo in modo diverso? Insomma, qualcuno mi ha anche detto ucciditi, sarebbe meglio se non ti riproducessi o ti uccidessero in qualche modo. Per quale motivo? Perché tutta questa cattiveria? Perché la penso in maniera diversa? Perché ti faccio notare che ti stai sbagliando? La verità fa male, sappiamo che la verità fa male. Fa male e fa male tanto. Continuo sempre a ripetere che è un percorso di sofferenza, è un percorso di crescita personale. Secondo me ti migliora tanto come persona, perché ti fa rendere conto veramente di chi sei, ti fa capire chi sei, da dove vieni, migliora te, migliora la vita delle persone a cui stai vicino, che ti sono vicine. E se questo non è importante, se vogliamo continuare a pensare a noi stessi, continuiamo a pensare a noi stessi, ma non offendiamo, non prendiamo in giro una persona perché la pensa in maniera diversa. Penso oggi, nel 2017, siamo abbastanza avanti da poter dire guardiamo che cosa hai da offrire, invece di prendere in giro, invece di negare l'evidenza, affrontiamo le cose, affrontiamo i fatti. Io ho fatto questo, ho affrontato i fatti non cambiano, i fatti sono quelli. Quali sono questi fatti? Dall'acqua, il sole, la luna, le immagini finte dell'atterraggio lunare, il fatto che non ci sono immagini di satelliti. Cioè, sì, ci sono immagini di satelliti, ma non sono reali. Quindi dobbiamo riuscire a riconoscere le bugie dalla realtà, dalla verità. La verità, perché siamo qui per cercare la verità. La verità per noi, la verità per l'umanità intera. Perché io ci credo tanto nella libertà, ci ho sempre creduto. Ho sempre creduto di essere libero, quando invece, piano piano, mi sono reso conto che non sono libero. Non sono assolutamente libero, almeno mentalmente, nella testa. Non ero libero, forse non lo sono nemmeno tuttora. Perché? Perché le bugie sono talmente tante e talmente grandi, è difficile uscirne fuori, in qualche modo. Crediamo a tutto quello che ci viene fatto vedere in televisione, ci viene detto da chi dice queste informazioni, come può essere il governo o la scuola. Io posso dire di avere le prove. C'è qualcuno che le vuole vedere queste prove? No, perché? Perché sa già le risposte. Cosa ti dice? Cosa ti risponde una persona quando gli vai a dire: guarda, ci ho da farti vedere questa cosa perché la Terra non è come ti è stata insegnata? Cosa ti risponde una persona? No, a me non mi interessa. Mi interessa, so già com'è. Te che prove hai? Cos'è che vi convince così tanto che la Terra è un globo che viaggia nello spazio? Quali sono le prove tangibili che potete dire: 100% è un globo? Dice solo un mucchio di cavolate. Allora guardiamo queste prove, questi fatti che dividono il bambino dalla persona adulta, che rendono l'uomo quello che è uomo, che ci differenziano tra l'essere intelligenti e l'essere dei creduloni. Andiamo a vedere cosa c'è sotto. Per migliaia di chilometri è piatto, continuate a dirmi che è curva. c'è qualcosa che non torna, perché le immagini, ci sono i palloni mandati su da persone come me e voi, persone normalissime, che hanno mandato su palloni con una telecamera, che arrivano a diversi chilometri di altezza. Ti viene detto: non puoi vedere la curvatura da terra perché sei troppo piccolo e sei troppo vicino a terra per poter notare la curvatura. Però mi è stato insegnato che le barche vanno dietro questa curvatura. E allora da che altezza posso vedere questa curvatura? Devo essere per forza nello spazio? Solo la NASA riesce a farmi vedere la curvatura? Che guarda caso cambia perché sono montate lenti a occhio di pesce? Perché nello spazio, nei satelliti, coi dicono che sono lassù, nell'ISS, non ci sono telecamere normali? Perché c'è solo telecamere a occhio di pesce? Che ti distorce la realtà? Perché quando guardate le immagini dall'ISS, vedete l'orizzonte, cambia curva, si raddrizza, poi diventa, la terra diventa da curva, diventa convessa, diventa concava. Nonostante tutto questo continuiamo a dire no, è tonda. No, è tonda secondo chi? Secondo chi è tonda? Perché per generazioni e generazioni ci hanno ripetuto, ci hanno fatto vedere questa palla rotante nei telegiornali, è ovunque. Nel telegiornale, nei film, nei libri di scuola, è ovunque questa palla rotante. E siamo convinti che sia reale, ma non lo è, non è reale. Quindi dividiamo i fatti dalle storielle e scaviamo per trovare la verità. Le prove che ci sono del globo non reggono a confronto con quelle a sostegno della terra piatta. E le persone non vogliono guardare, non vogliono assolutamente nemmeno guardare, nemmeno ascoltarti. Non vogliono ascoltare queste cose, perché gli distruggi quello che sono, perché la loro personalità è costruita intorno a questa cosa. Con questo vi saluto, un saluto dall'Arcadia, grazie a Radio Big World e alla prossima.